Ok, NG16, un grazie a tutte le persone che mi supportano, che mi stanno vicine. Ok, vai. Io vorrei saper credere in qualcosa, ma questa società mi fa odiare ogni cosa. Come questa vita sembra più armoniosa, ma frenato ogni tanto da qualche persona rispettosa che se ne frega, disprezza la vita. Ormai sono talmente su che il cielo potrei toccarlo con le dita. Sono testimone di un viaggio infinito, nonostante tutto non credo di essere ancora un mito. E percorro il mio tragitto anche se il mio cuore è ferito, e vado avanti con un urlo come fosse ruggito. Sai, sinceramente non so che direzione devo prendere, questo mondo ormai si è trasformato in cenere. Dimmi te adesso a chi dove credere, chi si nasconde fra gli inferi delle tenebre. Solo una luce mi farà chiarezza, che mi mostrerà ogni mia singola debolezza. Come un vecchio saggio che mostra la sua saggezza, la penitenza è stata nascondere la mia vera partenza. Ma ogni evento porta un difficile adattamento. Per fortuna esiste il pensiero che mi fa diventare un uomo libero, sincero. In questo mondo che diventa sempre più nero, che ti senti soffocare come se avessi un capo al collo. Ma nonostante tutto sono ancora qua fra e non mollo. Eccomi qua di nuovo immerso nei miei pensieri. Vorrei tante volte che i miei sogni fossero veri, ma poi ti accorgi che era solo un sogno. E speri che non vivrai più quei giorni neri. E se verranno, cercherò di affrontarli nel miglior modo possibile. Avrò più assi nella manica degli uomini possibile. Andrò avanti, proseguirò per la mia strada e mostrerò tutta la mia grinta, la mia indole. E vado avanti con una ruota motrice, portandomi appresso ogni mia singola cicatrice. Non mi faccio influenzare dalla gente di quello che dice. Risorgerò libero proprio come una fenice. Nessun campo di forza mi fermerà, neanche se invisibile. Supererò ogni ostacolo e ogni barriera possibile. E un grazie a tutte le persone che mi sostengono, e grazie a loro se mi sento veramente invincibile. E vado avanti nonostante tutte le difficoltà di questa realtà, e non mi pento delle scelte che ho fatto. Rifare tutto da capo, ma ricorda, non smettere mai di credere e di cercare il tuo sogno. Vivi la tua vita come se ogni volta fosse l'ultimo giorno. Ora mi sento leggero, ora mi sento di volare fra le nuvole in mezzo al cielo. Ma sei da tanto che non vedo più i colori dell'arcobaleno. Ormai scomparsi per colpa di questo mondo oscuro pieno di veleno. Non mi sento più sereno, con l'umore straziato, come se fossi stato vestito da un treno. Ma stavolta riparto davvero, riparto da zero, legato da un filo sottile di verità che mi fa differenziare da questa città e già da questa società. Nubile orizzonte, fine di un'era, fine di una catena, luna piena sfonda nebbiato. Condannato a restare in questo inferno con un fuoco eterno che mi brucia dall'interno, che aspetta solo di uscire. Non vuol dire che un modo di dire, in questo mondo vorrei smettere per sempre di soffrire, scoprire mio avvenire, capire come andrà a finire. E sai, nonostante tutte le difficoltà affrontate, chiudere per sempre il capitolo con la parola fine. Eccomi qua di nuovo immerso nei miei pensieri. Vorrei tante volte che i miei sogni fossero veri, ma poi ti accorgi che era solo un sogno. E speri che non vivrai più quei giorni neri. E se verranno, cercherò di affrontarli nel miglior modo possibile. Avrò più assi nella manica degli uomini possibile. Andrò avanti, proseguirò per la mia strada e mostrerò tutta la mia grinta, la mia indole. E vado avanti con una ruota motrice, portandomi appresso ogni mia singola cicatrice. Non mi faccio influenzare dalla gente di quello che dice. Risorgerò libero proprio come una fenice. Nessun campo di forza mi fermerà, neanche se invisibile. Supererò ogni ostacolo e ogni barriera possibile. E un grazie a tutte le persone che mi sostengono, e grazie a loro se mi sento veramente invincibile. Io non ho nessun superpotere come potete vedere, ma affronto ogni difficoltà nel mio cammino fra ragnatele. Vedo venere e dentro mi sento distrutto come se fossi un palazzo demolito. Io non giudico la gente, non punto mai il dito. Io non sono pentito, io non sono fallito, ma la notte non è ancora finita. Granelli di sabbia gelida in una spiaggia infinita, restando seduto da solo a pensare come se fossi un eremita, sperando che dopo questa notte si cambi vita. E se per me non avesse veramente senso, allora fosse inutile prendersela con se stesso. La musica non è l'unica cura, ma non bisogna avere paura di dire quello che si pensa. Ricordi, speranze buttate e lasciate in una dispensa. Lacrime amare, ma che ci puoi fare? Tante volte non puoi neanche scappare.